attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola, canale 10, cambio. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola? Hola, canale 10, c'è qualcuno? Hola, hola, hola. Attenzione, 10. Hola? C'è tu, canale 10? Hola, canale 10, c'è qualcuno? Hola, 10, becco. Cicu, cicu, cicu. Cucu, cucu, cucu. Che è avanti? Avanti su 10. Attento, ciccio, pasticcio. Chi è? Poi ciccio. Ciao. Va bene. Pensi con me. E mi ha appena arrivato a casa. Nulla, nulla, nulla, nulla. Sono appena arrivato, adesso mangio qualcosa. Dopo mi vanno pure di televisione. Ma lavorando? No, sto facendo la disoccupazione. Ho fatto la disoccupazione. Per 2 anni adesso. Sì, magari un anno, ma comunque devo entrare fra un po' a lavorare, insomma. Un mese solo ne uso di nastri e basta. Ma se pensi, no? No, no, da un'altra parte. Gappa, gappa, e vabbè, speriamo sia meglio questo qua, dai. E vabbè, io mi stavo pulendo l'acquario perché non stava tirando più l'acqua. Tutti i filtri che c'avevo, il motore l'ho smontato e si è trovato 2 pesci morti in mezzo a lì. E anche io l'altro giorno stavo guardando per il fatto del termostato se era a posto, perché l'altra volta ti ho detto che si era passato, era a 20 gradi che mi sono morti anche i pesci quest'estate. Non quest'estate, sarà un mese fa, 2 mesi fa. E c'era dentro 4-5 pesci dentro la vaschetta dove c'è il filtro. Pensa tu, il livello del motorino. E anch'io li ho trovati lì. Cos'è? Perché se ne entrano un piccolo poi o la porchiglia che entra, tutto quanto mangiano e diventano grandi, poi deve essere lui la bandiera, sai chi mi muore. No, però non erano morti, erano vivi, li ho tolti, cazzo non li vogliono uscire, li ho tolti con la ventina piano piano. Ah, anche io li ho trovati vivi qualche volta, ma questa volta erano morti ed erano incastrati nell'elica, ho dovuto smontare il motore. Sì, lo so, lo fa anche a me, due volte era tutto impazzato dove aspira l'acqua del motorino. Per quello che non mi tirava l'acqua, era tutto impazzato lì e non aspirava. E io ogni tanto pulisco per il cambio tritura l'acqua, dai. E tolgo l'acqua sporca che c'è dove metti i filtri, l'acqua sporca gliela tolgo e poi gliela aggiungo pulita. Ma io sono 2 mesi che non gliela cambio qua e l'acqua è sempre pulita. Ma mica la devi cambiare, l'acqua dell'acquario non hai capito del tutto, non la devi cambiare, la devi pulire, cambiare 3 dita ogni volta che pulisci i filtri, e tu il 3 dita, il tanto di pulire le cose e poi le raggiungi, non basta per il gioco. Sì, vabbè, non cambiare tutta, no? Togliamo la metà, la metà lo lasciamo. Allora, se tu li cambi l'acqua, li distruggi tutta quanta la fauna che c'è, capito? Li distruggi tutto, perché si formano delle cose che proteggono l'acqua, capito? Si forma un habitat naturale per i pesci, se tu gli togli troppa acqua, ricominci da capo, è come se ricominciassi da capo. Ah no, ma io non la tolgo tutta, Io ne ho tolto sì o no 5 litri, so. 5 litri d'acqua li tolgo. No, io anche 10, no, forse 10 no, ma 7-8 litri li tolgo. E poi prendo una pulita, una spirata nella ghiaia dove si filtra tutto quanto la sporcizia, prendo la pulita lì e via. E poi il Torino, il cane, dato, l'ho scritto e non ha risposto. E il cane è più offeso a tuo mio. Vabbè, più sentito, io gli ho scritto, beh, il cane ancora c'è, se l'ha portato lì a casa sua. E chi? Torino. E boh, il cazzo, come qualche cane che va, ora. No, in quanto sta a trovare qualcuno a darlo, io ho dato anche il nome e tutto quanto a mia figlia, l'ha messo su Facebook, l'ha detto a qualche amico, cosa se sentivano, però non lo so se è a trovare. Oh, non lo so neanche io, non lo so neanche io. Per carità, cazzo sta facendo freddo, Figlia, c'è temperatura di neve, dice che c'era la neve a Usulo, quando ieri. E a cosa buca a Monova, adesso non è che la neve che ha fatto a Monova. No, non l'ho visto, non ci ho fatto caso. E comunque c'è vicino, perché è freddo di neve. Se sono andato con i pantaloni mi leggo il gelato la sera questa lungaggine, infatti adesso metto i pantaloni della tuta che usavo per pescare, che sono imbottiti, sono in nylon e imbottiti dentro, capito? Sì, metti quei pantaloni, vanno quei pantaloni tirici, sia maglietta che pantalone, io ho la maglietta, due magliette io che mettevo quando facevo la notte. E quelli sono termici, me sono quelli che sono per andare a pesca, il giubbotto è quello, è un giubbotto da neve, i pantaloni sono termici, ma io mi siamo vedere il concerto di Max Pezzali, cazzo c'è boccato, c'è freddo quello, io ce la stavo sudando. E io ero di servizio a Castelsaldo, dove c'era Gigliacci, roba di niente, mira. Come di servizio? Non sarà qua. Dove ero prima, vado a fare i concerti. Ah, ho capito, dai. Servizio d'ordine. Mira, ed ero lì. Cazzo, roba di niente, mira. Se vedevi a Sassari allora, quando è finito il concerto c'era il traffico, invece che essere di macchine era di gente, non sapevi da che parte passare perché riempivano la strada, due marciapiedi, una parte dall'altra, tutti un via. Come posso immaginare, dopo Maxi Spezzali, le canzoni sono belle, come posso immaginare. E J-Ax, canzone di bella fa. Ma è stata una bucaria. Ma io non ci sarei andato a vedere Gigliacci, tu. Come lo vedi già assai. Max Spezzali sì, lo adoro, perché io le canto anche le canzoni di Max Spezzali, figura. Se vogliono entrare... No, pure frequenza, guarda che sei sicuramente in effetto. Grazie a un attimo, già. A salsiccia? Avanti, chi è? Le ho chiesto che cammino per Torres. Sto prendendo un apparecchio, lo sentite per caso? Ti sentiamo, ma sei fuori frequenza. Cerca di centrarlo. Come sei? 2775. 97075, sì. Però non ci sei. Sei sicuro che non è in FM? No, non ci si. Prova col clavi per vedere se si è centrato. Che apparato stai usando? Il segnale è forte, ma se fuori frequente. Guarda, non si sono meglio. Un pochino, ma si è sempre fuori. Ma adesso ti sei proprio allontanato. Ah, se non vuoi, non ti ho spento. Sicuramente si sta avviando. Che apparato è? Non lo so, non c'è, guarda 10 kHz questa roba qua, se spostano i kHz. Adesso è un po' meglio per caso. Prova a fare un passaggio lungo, prova. Gianni! Ehi, torna me, come va? Già va bene. Ci andiamo bene. Quello è... c'ha il tastino del chilo e anche la giornata è inserito. Io non so che apparato sto usando, non l'ho capito. Ho capito che, ma non che apparato è. Perché io sono andato a FM, ma non è in FM. Mi sei detto, e poi c'è la 27-25. Non è chiaro come devono essere, capito? Magari i condensatori che si devono caricare, perché si sono scaricati i condensatori, lasciatelo fermo. Speriamo, adesso vediamo, perché non è acceso. Ascolta, che vedo lo stai usando? Un cavo di 440, un cavo di 3. Ascolta, prova a togliere il processore a vedere. Prego, prego. Registrato un attimo. L'hai tolto il processore? No, non ho toccato niente. Adesso ti sei ripreso, prova a parlare. Adesso mi sentite? 1, 2, 3, prova. Sì, mi sa che si sta schiarendo, però quel passaggio che hai detto non ho toccato niente, era chiaro chiaro. Che cosa hai fatto? Forse ci devi allontanare dal microfono, prova. Allora, aspetta, abbasso un po' il microfono, guarda adesso come mi senti. Adesso sei perfetto. Ah, perfetto, grazie mille. Ora vengo con il microfono troppo alto. E allora? Sì, il risultato è come se fossi fuori frequenza. Avanti, break. K, Piraneale, direttore Giuseppe, sto provando un mic da tavolo, se mi dite come c'è. Un microfono da tavolo? La radio è chiara, ma non è amplificata. Beh, chissà, durone. E sei Fabri? Fabri, tu sei Fabri Fibra. Avanti Tore, fai girare. Sono qua, ho cambiato apparato per il telecom, adesso ho sentito che era normale. Perché aveva il microfono Tore, capito? Sembrava fuori frequenza. Qualcosa c'era che non andava perché non era chiara la radio. L'ho sentito che era tutto normale. Che ha abbassato il microfono, lo sta facendo benissimo. Avanti l'amico del portatore. C'è rimasto. C'era anche Emanuele, sei andato, vabbè. A chi tocca, avanti. Tutti i gusti. Avanti tocca. Mi pare che tra come si è ha detto che si è allontanato, ho sentito. Sì, Emanuele sì, ma magari si è aspettato un po' di fette di salsiccia e poi torna. Non ne posso dire nulla. E mai lo so che si mangia la salsiccia di piace un po'. No, non accetta provocazioni. Chi è che sta uscendo senza voce? Se l'amico che sta facendo le prove non sta uscendo di radio. Adesso sto uscendo? Adesso sì, sei meglio presente adesso. Quindi diciamo che questa regolazione può andare bene. Cappa. Grazie. Prego, se vuoi restare non c'è problema. Sono sempre io, scusate se vi disturbo. Adesso mi senti sempre chiaro per caso? Adesso praticamente sì, sei chiaro, ma se diciamo la modulazione è più chiusa, cioè. Adesso è un po' più alto. No. Poco fa andavamo. Adesso invece 1, 2, 3, prova. Ti sento troppo forte, boh. Prova a abbassare quel microfono e mettilo da 2 in poi, dai. Adesso è basso, 1, 2, basso. Aumenta, te lo dico io quando lasciano. Adesso ho aumentato appena. Adesso sta andando meglio, prova a aumentare ancora un po'. Adesso l'ho messo quasi a 3, adesso è a 3. Adesso sta già distorcendo. Allora lo tengo così, dovrebbe andare meglio, no? Così è chiarissimo, lascialo così, poi un po' d'acqua e non lo tocca più. Era un medio di tempo fermo, non accendo mai, lo rovino il sto apparecchio. E gli apparecchi si accendono sempre, anche se non li usi, li devi accendere, perché se no i condensatori ti partono. Lo so, la mandronia è molte volte. Da dove moduli? Porto Torres. Ah, ho visto che hanno incendiato macchine stavolta. Ah vero, non l'ho sentito io. E via mai, hanno messo fuoco, perlomeno, ha preso fuoco, gli hanno messo fuoco un furgone e due macchine. E via mai dove ci sono le villette, dai. Andiamo bene. Che paga, ma magari c'è stato qualche corto, qualche cosa del genere. Comunque stanno bruciando un po' di cose, a casa si erano bruciato due locali, da poco, macchine, di tutto di più. E tu dove stai modulando? Io la Sassari. Però conosco il costruttore come le mie tasche, perché ci ho lavorato 39 anni. Giusto un pochino. Appunto. Poi facciamo consegne, quindi ti puoi immaginare, conosco tutte le vie. K. Con che nominativo esci solitamente? Caimano io uso, ce l'avevo tanti anni fa, lo usavo, adesso poi con la cena di morte di Papa, modulavo nel 12. E che di Silvestro, da quelli lì. Poveraccio, Silvestro. Quando entravo a Porto Antonio con la macchina, c'era un baracchino, mi diceva, Gianni, fermati a casa a pagare il pedaggio. Quel tempo era bello, un bel di gente c'è. Sì, ce n'era un bel. Me ne ricordo di versi. C'era Toccai, tutti quelli lì. Ma tu non sei per caso Barbanera, no? No, io sono tutti un rumba. Ma qua, ma è. E noi? Ciao. Mica c'è il tuo paesano, ciao. Mio paesano? Due paesani oramai. A voi 40 anni, chi è? Avanti. Ciao, Sparviero. Ciao, chi è? Caimano, non so se ti ricordi. Caimano? Io Marco dal 1983 era la produttore. L'antenna l'ho attaccata nell'84, da lì a casa di mamma. L'ho piazzata qua. Non mi ricordo, come ti chiami di nome? Emiliano. Emiliano. Tu sei amico di quel pispano di cose, come si chiama? Quello di amatore, come si chiama? Che abita lì di Antonelli. Fondo. E adesso sono a Poggio, non lo vedo. Non l'ho più visto. Non l'ho più visto, non l'ho più sentito. Non c'è la patente per dire, c'è la patente, non è mai entrato a fare radio. Vabbè, tutto a posto, Emiliano. E gli altri ragazzi, Cristian, tutta la banda tua, che fine hanno fatto? Non l'ho più sentito, io adesso ho sceso il baracchino perché sto facendo pulizia, adesso ci do l'accello prima che si rovini. Ci mettiamo sì a Porto Torre? Sì, sempre a Porto Torre. 9,5 qua. Quanto già? 9,5. 9 mi arriva a me, 9. S9 mi arriva a me. E vabbè, tu ce l'hai un po' più davanti, io so se non lo vedo, però è un ottimo segnale. Va bene, vai già. E quanti faccio stai usando, Emilia? Allora, adesso sono 8 watt, 9 watt. E quindi la sto usando nemmeno una volta. Avanti il tore, c'è anche il tore squalo, avanti il tore. Buonasera, signor Spalviero. Ciao, tore squalo. Tore squalo, non sapevo c'era anche tu, perdonami. Ho sentito a Gianni. Sono stato salutato, io saluto solo il cuocuoma, tu non sei cuocuoma, allora non ti saluto. E te girare, andiamo bene, va bene, già andiamo bene. Anche l'amico di Porto Torre, se io l'ascolto benissimo. Tanto c'è un segnalone, Emiliano, alla grande. Ma che zona abiti, Emiliano, nella via delle vigne, no? No, sarà lì Ponti, insomma. Prima ero in via delle vigne. Ah, c'era l'ipotesi, sì. Vicino a quell'altro pisquano di Claudio. Credo la sì, c'era l'ipotesi. Non c'è anche Claudio lì, un altro rimattore fantasma. Non lo conosco, boh, non saprei. Di antenne c'è la mia, poi non ne vedo altro. C'era uno, un rimattore che è morto un paio d'anni fa, non mi ricordo il nome. Ma beh, quello era coso. No, è dinamite. Gianni Dinamite, che poi si chiama Claudio, il suo vero nome. E quello era di Mattore, è lì di fronte alle Bissoni proprio. Chi? Carabiniere? Carabiniere di Braghetta, anche tu carabiniere. Il padre era carabiniere a Nulfi, Vincenzo. E allora si occupo un vedo io, vai. Cavagava. E abitare a Porto Torre, già. Eia, Maria, c'era il Pozzi, abita a 40 in pensione, il padre, prima abitava a Nulli, poi ci hanno preso la casa pronto, c'era il Pozzi, ci sono anche andato io, c'è una radio, insomma, l'ha venduto una radio, non funzionante, l'ho fatta riparare, una radio amatoriale, una radio non funzionante, proprio stracco barato, l'ho fatta riparare, mi è convenuto perché una radio che costa abbastanza, fatta riparare, ho speso 180 euro per ripararla e ce l'ho sempre, funziona alla grande, della Icom. Beh, non le usa più le radio del baracchino. Ma non lo so, io so che c'è l'antenna, ogni tanto qualche volta l'ho sentito, però non da casa sua, è molto amico di quello di Ugio, capito? E quindi qualche volta l'ho sentito, però in banda amatoriale non l'ho più sentito. Inizialmente si entrava, poi a molla di butto, non lo so se è a produttore, se lavora a produttore, se cosa stia facendo, l'ho perso un po' di vista, ma è una bravissima persona. È una bravissima persona, io ho avuto modo di conoscerlo, l'ho anche frequentato quando era Carbonazzi. Poi boh, non so, nulla di brutto, non so perché. E sarà stufato, come tutti, col telefonino fai tutto e... Poi il telefonino ha rovinato la frequenza, perché prima al posto del telefonino si usava il baracchino. E cave, macchina, ce l'avevano tutti, cazzo. Sì, vabbè, ma cazzo c'è anche la rimantola, metti tu una radio in macchina, fatti sentire, io ce l'ho in tutte e due le macchine, ce l'ho tutte e due le macchine, tutte e due con le radio, sia VHF e UHF, addirittura nel funzionario ci sono anche le HF, però non le uso perché devi cambiare antenna, fare, insomma, però almeno la banda, insomma, VHF metti tre macchine, non ho mai messo niente, non lo so. Non lo saccio, ognuno fa quello che le piace, io le radio ce l'ho, sia in macchina per fare il radioamatore, a casa faccio uno e l'altro, non è che sono molto presente, ma comunque se c'è gente, due chiacchiere me le faccio, anche quello fa parte del sistema. Vai Emilia. Io mi so, c'è tanti, tanto di pulizia qua, era un giorno che fa passare. Io no, io c'ho sempre la mia stanza, sempre c'ho la radio, questa l'ho fatta subito, ho truccato tutta la barabà, tutte le basi, tutte le cose che mi ha fatto Marco Giulio, le ho rimesse qua, c'ho la mia stanza, non mi rompo le palle nessuno, ma sono dentro casa, potrei anche farla nell'altra, ne ho un'altra vuota, di stanza fuori, però è il cavello grande, enorme, ma... Mia moglie ha voluto fare la lavanderia lì e quindi ha detto ma tacca isolando mi prendo questa stanzetta. Già va bene. E allora Matondore, a venne freddo a Tattari. È un po' fuori, ma dentro già si sta bene. Nella mia camera già si sta bene, la Puglia. Faccio un garone, demmo si pone vicino, quindi già si sta bene. Penso che c'è più freddo lì, Claudio. Dove qua? Fuori? Fuori ci sono 3 gradi di differenza da Sassari. Ma dentro casa sto benissimo. Sono in una giacchettina leggera, ma fra un po'. Me la tolgo pure perché la temperatura sta salendo, io ho l'impianto con i termosifoni, lo stesso, lo accendo dopo pranzo, sino alle 10:30, 11, poi lo stacco perché, vabbè, stacca da solo, perché se no c'è troppo caldo, qua c'è un termosifone grande, lo stesso, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, a 16 elementi, fatelo un conto. Che cazzo, ha voglia di gas. E vabbè, la casa lì è grande. No, io ho termosifoni, ne ho diversi. In ogni stanza c'è un termosifone, capito? Il più grande ce l'ho in sala e poi c'ho quello a 4 elementi, le bagni e quello a 3 elementi e la cameretta. E in sala 1, non ve ne tre nodi, ce n'è tre nel salone, perché la mia è un po' specie grande, di 40 metri quadri di salone. cioè tre salone, uno grande qua nella cameretta dove c'ho le radio, uno in bagno, uno grande in camera da letto mia e l'altro in camera da letto di mia figlia. E tutti i termosifoni che a Gaza, ragazzi, ma che già ne peggio, lui ha fatto il termosifone che ha fatto a Gaza. Vabbè. Non riesco a tagliare l'erba, cazzo, se non mi dà tregua almeno una mattinata che non piove, non deve piovere la notte, perché se no mi si bagna il giardino e la mattina l'erba è bagnata, non posso tagliarla. Non riesco a passare il rasa erba, almeno dentro, fuori non mi interessa. Fuori già la strada già è pulita, un po' dietro il giardino c'è un po' di erba, ma non è che mi interessi più di tanto quella. Però dentro non riesco a rasarla, cazzo. È sempre tutto infuso, tutto bagnato. C'è umidità poi la notte, quello è. Anche se non piove, Claudio, quando io porto il cane, c'è con la nebbia, c'è quel pulviscolo umido che ti scende addosso e ti bagna. Ehi, ma magari fosse solo quello, ma sta sempre piovendo. Sta sempre piovendo e il giardino non riesce a... Sì, assorbe, ma l'erba rimane bagnata, capite? È già a 10 centimetri. Con la erba già taglia lo stesso, perché c'ha la lama sotto, poi la raccoglie, quindi rimane tutto pulito, c'è il cestello, capite? Ma non riesco a tagliarla. Boh. Avanti, Emilia. Opala. Beh, scusate, signore. Dai, vi saluto, è Molvere che sta chiamando. Già cerco di entrare ogni tanto, no? Grazie alla compagnia, ci aggiorniamo. Ciao a tutti. Ciao Emiliano, ciao, buona serata, grazie per le questioni. Ciao Emiliano, un abbraccio, fatti sentire che già c'è sempre gente qua a Tattari. Avanti tu. Ciao Emiliano, stanno bene, alle prossime. Calma. E poi classe piove, anche se l'altare ti cresci d'oro. Sì, no, ma guarda che qua, col freddo che c'è, non è che cresce molto in fretta. Non cresce molto in fretta, però ha fatto troppa pioggia, poi qualche giornata magari un po' soleggiata e sale, ma sono un mese che non ne taglio, era bassa bassa, e tu che bello così, la lascio, invece è già troppo alta. Beh, adesso si diventa peggiardiere. Ma cosa, già non faccio nulla, io c'ho il giardino tutto così, chiamalo prato, chiamalo come vuoi e basta. Ci sono due alberi fuori, ma non mi creano problemi. Non è piantato piatti, fiori, roba così? No. E se no ti tocca travagliare. Guarda, se era per me, credimi, Giacomo, fratello, avevo già mandato la vettomera, avevo fatto tutto a cimento. Vabbè, un po' di verde già è bello, dai. Anche per il cane, che è un po' di misure. Lo so, ma è... estate ci vorrà lavorare, devi stare sempre tagliando erba, adesso da febbraio in poi, marzo, fino a settembre devi stare sempre tagliando erba, non ti dà tregua, cresce un bel. Però già mi diverto, dai, è che stanno mancando le forze. No, ma mentre io c'ho rasa erba, mi diverto pure, capito? Perché non è di quelli a sedersi, mi appoggio, metto la macchia, do bacio, mi faccio un giretto. Il problema è il decespugliatore, cazzo, il decespugliatore è un bel pigiante, mamma mia. Me l'ho portato a Pronuncio Sano l'altro giorno, me l'ha tutto revisionato, mi ha cambiato le membrane, mi ha messo le pompette nuove, che da quando l'avevo comprato non ho fatto niente. È pronto per usarlo, ma ancora no, non è taglio di erba. Vai tu. Infatti anche io sto pulendo tutti i luoghi intorno, alberi e quanto ce n'è in Zolampendi. Hanno pulito tutti i giardini che ho qua davanti. Alberi mi stanno pulendo e tutto. No, io alberi non ne ho dentro. Cioè, sono due fuori, ma sono distanti anche dal cancello, quindi fastidio non me ne vanno. Macchia mediterranea c'ho un bello, tutto il terreno io pulisco a 2 metri dal muro del giardino esternamente, poi il resto è tutto macchia mediterranea, tutto a mania di cinghiali, già va bene. No, il posto già è bello, lo tengo anche pulito, ordinato, però se continua a piovere è una rottura di balle, capito? Vai già. È un passatempo, dai. È un passatempo, per chi è in pensione è un passatempo. Almeno fa qualche cosa, dai. tu che la vuoi fare, se no da lui, da lui. Non è così. Lo so, ma quella vabbè è una fesseria, ma non fece l'unisce. Io ogni anno pronuncio il cancello, do il, tutto il fratello dei sportelloni, quelle cose lì, soprattutto quelli che sono esterni, perché ne ho quattro esterni, ne ho quattro esterni e quattro interni coperti, capito? Però c'è la veranda della, del Carverio e la veranda del, di fuori, quindi quelli lì non prendono acqua e rimangono più, più protetti, ma quelli che sono all'acqua, se non li fai le manutenzioni ogni anno, in un paio d'anni non vai più sportelloni, capito? Perché tra il sole e tutta la pioggia il legno te lo rovina e già c'è da lavorare, sì. C'è da fare, e vabbè, pazienza, io so che la campagna è a Terbonazzi, ero anni, ci devo riuscire, piano, ci sono riuscito, ma già è meglio non fare niente, già, a futtidini. Però meglio stare tranquilli nel palazzo. Alla fin fine, non è che ho fatto un grande affare, pochissimo, a me non mi rompeva le palle nessuno, solo che il problema del cane stava iniziando a dare fastidio qui e là, quindi ho preso la decisione, se no guai, tanto è vero che Filippo lì era sempre ammalato, è stato un bel male, ci sono stati periodi, manco si muoveva, poverino, capito? Invece qua è per i fatti suoi, mi è uscito, l'ha fatto uscire mia moglie, ha fatto la pipì, è rientrato, questa salsa sta sempre attaccata al termosifone, se ne vado poi c'è la caldaia lì attaccato, mamma mia gara, qualche giorno si brucia la testa. E dai, non sa dove passa il tubo in terra, con il cazzo in terra dove passa il tubo. Il mio si mette proprio attaccato e c'è caldo, cazzo non ci puoi stare vicino e non ci puoi mettere il cazzo, vabbè che è freddoloso, mi piace l'estate, sta fuori con il cazzo al sole ore, invece la notte è abituato a dormire col prendi sopra, il materassino bello morbido, io da prodotto ci vedo un gabbo, sta tutta notte addormentato, qualche volta si alza e si gira, però sta già dorme abbastanza, l'età che ha dorme abbastanza. Però tu sempre dubbi hai. E allora, sempre mi, dai però già Barillo, il Nantaruretto. La signorina mi era abituato in Nantaruretto e non riesco a cavazzirlo lì, a farlo gucca in terra, nulla da fare, quando si gocca, quando va a caso, si buone da indivero dubbo. Un sacco di volte se ne va e si sdraia lì, però ora è dare da me una parolita. Un attimino dai che io guardo che c'è Cesare che si sta lamentando e vuole scendere, dai. Ci sentiamo, grazie per il questione, buona continuazione, ciao a tutti. Ciao, state cosce belle, vai dopo. Ciao già, stammi bene, buona passeggiata, da acqua vicino. Altrettanto, ciao. Ma sono così i cani, anche il mio stava sempre sopra il letto, quando era più piccolo saltava, adesso non ce la fa più a saltare. Ma se rubi un braccio, un buon è nato al letto, non se ne va più. Anche il mio era così, stava sempre sopra il letto, sempre. Io lo cercavo, ma dov'è Filippo? Allora ricamai te l'ho guccato in altro letto. Invece adesso poverino grande, di età, non ce la fa più a saltare. Capito? Ma prima brincava, si era andato in altro letto. Adesso però c'ha il materassino suo, ne ha uno qua in cameretta, perché dorme qua la notte, ne ha uno qua in cameretta, il materassino, e l'altro ce l'ha nel salone sotto la TV. Fino a quando noi siamo lì, sta sotto la TV. Quando spengo tutto ci colleghiamo e ci cocca in cameretta. Lo copro, se ne mette a manzano, ai nuovi, ai resi, aprire la porta a fare la pipì. Se no non è un cane che disturba, non è un cane se ne mette a resi di manzano. No, io questo la mattina cioè, scendo alle 7:05, lo scendo giù, faccio un giro grande, c'era la passeggiata da Edo che era mia, però quando sta piovendo, sono 10 minuti, 10-15 minuti e se ne sale e mi fa salire su. Non esce neanche, esce 2 minuti, va a pisciare solo e bu. No, mio, non ti vedo di freddo che buonanzi, quando pioveva. Adesso le apro la porta e esce da solo. Se sta piovendo la pipì la fa in veranda. Io con la pompa prendo e pulisco. Mentre c'è la cacca la fa nell'erba, non ne ha mai fatto in veranda. Ma neanche nei marciapiedi, niente, sempre nell'erba. Quando lo portavo in giro sempre nell'erba. Dove vedeva erba allora la facevo. L'avevo abituato così da piccolino, capito? No. E più rompo i palle perché sta sempre andando più reggo in giro. Poi beve molto il mio perché c'ha un po' di coso, capito? Beve molto, quindi se non le tolgo l'acqua, ero rattezzata perché se il mongo la giotto le leva, ce la visi tutta, poi non resiste e mi fa la pipì dentro. Allora gli ero rattezzata, arrivici, non vedi, vieni qua, capo di cui farò così. È magro, poverino, ha dimagrito un bel, ma va un capo bavagnoni. No, io questo l'ho abituato subito a farla sull'erba, e in altri posti non me ne fa. L'ho abituato subito, come l'ha portato qua, l'ho abituato a farlo sull'erba. Infatti, o si appoggia all'albero, o si appoggia sull'erba e la fa sull'erba. Non me ne fa né in nessun altro posto. Neanche i pirati ne vagi, la fa sull'erba e boh. No, ma neanche questo, anche questo è così. Vabbè, trovati, anche io mi sposto, sono le 8:10. Senti in dimmo, vado a avere il mio TG. Stammi bene, buon fine serata e buon todos. E ci sentiamo qua, alle prossime, ok, grazie. Dalla chiacchierata. Ciao, risentirci. Ciao.